verso vole mai pensiero e all'occhio indagno mi concitò. Altra prova rinvenir potessi, vediam. Qui va un ritratto, l'utel non v'è, nulla ne disse, nulla promisi, apra dunque. E ora, orelli vivo e di mia mano vuoi moia io sono bello e salvo a gioia. Seguisti cuore tuo padre, chi nel sangue di tuo padre, chi nel sangue di tuo padre, di quel volto rosseggiato.